stagione del melone, quel periodo di freschezza, di giornate sotto al sole, piene di spensieratezza. La stagione del melone ci sorprende ogni estate, signorine affaticate dai pesanti frutti estivi. Le si vede per la strada, fruttivendole per caso, coi meloni sotto al naso. Li trasportano così, ci dispiace di vedervi trafelate dallo sforzo. Se vi servirà una mano, volentieri vi aiutiamo. Dico, se continua a piovere così, sarà una grande annata per il melone. Spuntano ogni giorno sempre più, ci son mancati inverno, quanto vi ho pensati. Tra le vie della città, spensierati camminiamo e neanche ci accorgiamo. L'abbondanza intorno a noi, oi oi oi oi oi, tutto a un tratto senza avviso ci si parano davanti, oi oi, quei meloni arroganti che ti fissano lassù. Che la frutta faccia bene me ne accorgo solo adesso, ne dovrei mangiare più spesso, anche quattro tutti insieme. Mi permetta se disturbo, vedo il suo raccolto estivo, la domanda gliela porgo, dica quanto li fa il chilo. E penso, se continua a piovere così, sarà una straordinaria annata per il melone. Non mi fido che sono maturi, faccia vedere, sono scuoto, devo un poco valutare. La stagione del melone, no, non ci ha deluso mai. Dove giri, dove vai, circondato dai meloni, oh. E alla fine dell'estate vi saluterò così, ci vediamo fra sei mesi, sì, dimmi che mi penserai. Se continua ad essere così, vedrai che la prossima estate mi ricoverate. Intanto passerò l'inverno sempre qui per disintossicarmi. Vedrai, saprò scordarli per poi l'estate alzarmi e di tutti quei meloni innamorarmi.